50 domande su Gesù. Chi fu San Paolo? Come trasmise gli insegnamenti di Gesù? Paolo è il nome greco di Saulo, uomo di razza ebrea e di religione giudaica, nativo di Tarso di Cilicia, città situata a sud-est dell'attuale Turchia, che visse nel primo secolo d.C. Paolo è stato pertanto contemporaneo di Gesù di Nazaret, anche se probabilmente non si sono mai incontrati in vita. Saulo di Tarso fu educato nel fariseismo, una delle fazioni del giudaismo del primo secolo. Come egli stesso narra nella lettera ai Galati, il suo zelo per il giudaismo lo portò a perseguitare il nascente gruppo dei cristiani, che considerava nemici della religione giudaica, fino a che, in occasione di una spedizione contro i cristiani, mentre percorreva la strada per Damasco, Gesù stesso gli si rivelò e lo invitò a seguirlo come aveva fatto con gli apostoli. Saulo rispose a questa chiamata ricevendo il battesimo e dedicando la sua vita alla diffusione del Vangelo. Atti degli Apostoli, capitolo 26. La conversione di Paolo è uno dei momenti chiave della sua vita, perché è proprio da allora che comincia a capire quello che è la Chiesa in quanto corpo di Cristo. Perseguitare un cristiano è come perseguitare Gesù stesso. In questo stesso passo, Gesù si presenta come resuscitato, condizione che è riservata dopo la morte a tutti gli uomini che seguono le orme di Gesù stesso, e come Signore, affermando il suo carattere divino, giacché la parola che si usa per denominare il Signore, Kyrie, si applica nella Bibbia greca a Dio. Si può dire allora che Paolo ricevette il Vangelo da Gesù stesso, sebbene poi, anche aiutato dalla grazia e dalla propria riflessione, seppe ricavare da questa prima luce molte delle principali implicazioni del Vangelo, non solo per una maggiore comprensione del mistero divino, ma anche per mostrare agli altri le sue conseguenze sulla condizione e sull'azione dei credenti e dei non credenti in Cristo. Paolo, al momento della sua conversione, è presentato come un profeta, a cui è stata assegnata una missione ben precisa. Come si legge negli Atti degli Apostoli, il Signore diede ad Anania l'incarico di battezzare Paolo, dicendogli: «Vai, perché questo è il mio strumento eletto per portare il mio nome ai gentili, ai re e ai figli di Israele. Io gli mostrerò quello che dovrà soffrire a causa del mio nome». San Paolo portò a compimento la sua missione di predicare la via della salvezza durante lunghi viaggi apostolici, fondando e confermando nella fede diverse comunità cristiane nelle province dell'Impero Romano, Galazia, Asia, Macedonia, Acaia, eccetera. Gli scritti del Nuovo Testamento ci presentano un Paolo scrittore e predicatore. Quando giungeva in un posto, Paolo si rivolgeva anzitutto alla sinagoga, luogo di riunione dei giudei, per predicare il Vangelo. Poi si rivolgeva ai pagani, cioè ai non giudei. Successivamente Paolo incominciò a scrivere lettere che erano ricevute dalle chiese con una particolare riverenza. Scrisse lettere a comunità intere e a persone singole. Il Nuovo Testamento ne ha trasmesso 13. Una lettera ai Romani, due ai Corinzi, una ai Galati, una agli Efesini, una ai Filippesi, una ai Colossesi, due ai Tessalonicesi, due a Timoteo, una a Tito, una a Filemone. Sebbene non siano di facile datazione, possiamo dire che la maggioranza di esse è stata scritta dall'anno 50 al 60. Nei secoli scorsi e fino alla prima metà del secolo scorso, veniva attribuita a San Paolo anche la lettera agli ebrei. La critica ed anche la stessa Chiesa hanno riconosciuto che essa non si può attribuire con certezza all'Apostolo delle Genti, ma ad altro autore di controversa identificazione, pur riconoscendone l'ispirazione paolina e continuando ad annoverarla fra le lettere canoniche. Il centro del messaggio predicato da Paolo è la figura di Cristo, visto dalla prospettiva di ciò che egli ha compiuto per la salvezza degli uomini. La redenzione operata da Cristo, la cui azione si pone in relazione molto stretta con quella del Padre e con quella dello Spirito Santo, ripristina la posizione dell'uomo compromessa dal peccato originale nella situazione di amicizia con Dio stesso. Prima della redenzione, l'uomo camminava nel peccato, sempre più lontano da Dio. Però ora c'è il Signore, il Kyrios, che è risuscitato vincendo la morte e il peccato, e che costituisce una sola cosa con quelli che credono e ricevono il battesimo. In questo senso si può dire che la chiave per capire la teologia paolina è il concetto di conversione, metanoia, come passaggio dall'ignoranza alla fede, dalla legge di Mosè alla legge di Cristo, dal peccato alla grazia.